Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Siamo pronti al salto bungee jumping, 55 metri, guarda lassù. Ok, testa in su, pressione spinta, 3, 2, 1, jump! Wow! Su una parete di 1000 metri sugli Alpi, dopo 500 metri sono esposto al massimo perché sotto c'è lo strapiombo, sopra di te c'è la parete liscia, non sai se riesci o no. Tu vivi in un mondo verticale, basta poco, 1000 metri niente sulla nostra terra per essere esposti al massimo, specialmente quando si è soli. Su una montagna di 8000 metri l'esposizione è molto più grande, però la difficoltà tecnica è... Anche per farsi male basta cascare da una finestra che è 3 metri da terra, basta inciampare in una buca nel manto stradale, scivolare, rompersi un ginocchio. Per farsi male ci sono tante maniere, ma esiste una sottile attrazione verso le situazioni di pericolo in cui noi non pensiamo che possiamo farci male, ma assaggiamo e pregustiamo quel fantastico processo chimico che avviene nel nostro corpo quando siamo in una situazione estrema, in cui ci troviamo sospesi di fronte a un abisso e pregustiamo e ci godiamo il momento magico in cui noi riusciamo a contenere, a assaporare, a dare un senso a quel momento in cui noi siamo sospesi sopra l'abisso. Questa probabilmente è la chiave fondamentale di perché tante persone pratichino ad esempio degli sport rischiosi, degli sport estremi, che sono una continua sfida con se stessi. Lo stesso sciare, nelle sue forme più pericolose, più sportivamente detestabili, come l'andare fuori pista, l'andare nei posti particolarmente difficoltosi, dà una sorta di vertigine, una insopprimibile euforia, quasi lussura della discesa veloce, dell'andare verso un possibile pericolo. Io particolarmente, se volete una citazione biografica, a 17 anni, ingannando gli istruttori, feci un corso di paracadutismo sportivo e poi lo praticai per qualche anno. Mi domando adesso alla mia venerabile età perché lo feci. Lo feci perché sentivo che avevo bisogno di superare me stesso in una situazione pericolosa, poi pericolo tecnicamente pressoché nullo, ma se ancora penso alle attività poi negli anni successivi del trovarsi sospeso a 3.000, 4.000, 5.000 metri di fronte all'orizzonte che comincia quasi ad incurvarsi man mano che si aumenta di quota e buttarsi non nel vuoto come tutti pensano, non ci si butta nel vuoto, ci si butta in un fluido che ti sostiene, beh, era una situazione di immensa sfida con qualcosa che era contro la nostra natura, ci vuole coi piedi per terra. Beh, questa mattina vorremmo ragionare sulle tante possibilità che abbiamo toccare con mano e con tutta la nostra corporeità una situazione di estremo pericolo. Perché ci piace tanto il pericolo? Perché molte volte noi cerchiamo situazioni pericolose, ma anche chi guida, chi va in automobile, si lascia andare un attimo il piede sul pedale e prova l'euforia della velocità, dell'ostacolo si avvicina sempre di più. Perché quel momento è un momento fatato, è un momento irripetibile? E perché lo cerchiamo continuamente? 800 24 0024. Il base jump è lo sport estremo per eccellenza. Consiste nel lanciarsi da costruzioni e pareti per volare in caduta libera con o senza l'ausilio di tute alari. Sicuramente è l'espressione che si avvicina di più al volo puro, pure in se stesso, perché noi comunque sfruttiamo solo la gravità, specialmente con la tuta alare. In free fly o paracadutismo si usa un aereo per andare in quota e saltare, qui bisogna arrivare su una montagna piuttosto che un palazzo o un altro oggetto per riuscire a buttarsi nel vuoto. Sì, un volo di 2 minuti sembra una vita, hai tempo proprio per godere la panorama, la vista. A livello emozionale rimane sempre un discorso... 800 24 0024, noi stiamo citando alcune delle più classiche occasioni in cui esseri umani, seguendo una tecnica, un particolare training, seguendo un protocollo conosciuto di estrema sicurezza naturalmente, amano sfidare situazioni di pericolo. Lo chiamiamo sport estremo, lo chiamiamo attività estrema, chiamiamolo come vogliamo. Sono persone comunque ripetutamente fanno delle azioni per trovarsi in questa situazione in cui si scatena l'adrenalina, si scatena questo neurotrasmettitore che ci crea delle vere e proprie mutazioni nel nostro fisico, che è un effetto piacevole, se no noi non cercheremo il pericolo. In realtà è il nostro campanello d'allarme che siamo in una situazione di pericolo, dovrebbe allertarci, ma molte volte invece ci alimenta. Seguiamo questo flusso che ci dà i segnali, che dovrebbero essere quelli che anticipano il terrore e il panico, e in realtà ci piace crogiolarci nella situazione di pericolo. Roberto Inchingolo, buongiorno. Buongiorno. Roberto Inchingolo è un giornalista, ha lavorato in scienze naturali, specializzato in comunicazione della scienza, e ha scritto un libro proprio su questo argomento: perché ci piace il pericolo, adrenalina, paura, piacere. Esiste un rapporto proprio chimico che fa sì che ciò che dovrebbe avvertirci in una situazione di pericolo diventa quasi una nostra droga di piacere? Allora, l'adrenalina, che spesso si cita come appunto una delle attrattive principali per una situazione di rischio, è sicuramente uno dei neurotrasmettitori più importanti per far sì proprio che il nostro intero corpo vada incontro a tutte le trasformazioni chimiche, dette quelle di reazione di attacco o fuga, che ci preparano ad affrontare una situazione rischiosa. Il corpo va appunto quindi incontro a tutta una serie di mutamenti che ci rendono il più possibile preparati dal punto di vista fisico e dal punto di vista della concentrazione. Tuttavia non ci sono delle riprove del fatto che l'adrenalina in sé, in quanto molecola, in quanto neurotrasmettitore, sia piacevole. La piacevolezza del pericolo, la piacevolezza del fare un'attività rischiosa, fare uno sport estremo, oppure a fare un mestiere anche pericoloso come può essere quello dello stuntman, ma poi si può vedere anche come le stesse reazioni intervengono anche quando ci troviamo di fronte a un pericolo virtuale. Uno spettatore di un film horror avrà la stessa reazione di paura e quindi la stessa attivazione dei circuiti dell'adrenalina che una persona che si trovi nella stessa situazione di pericolo. In questi casi, se no non ci sarebbe questa fortuna e questa affezione per alcuni generi di intrattenimento e di spettacolo, Inchingolo, che creano proprio questo effetto. Alcuni film fanno venire proprio un brivido alla spina dorsale, creano delle mutazioni, degli improvvisi attacchi di panico, e noi andiamo a vederli e ci piace il genere, o perlomeno a chi piace questo genere. Lì si può soltanto notare come l'enorme potere dell'immaginazione umana permetta appunto di immedesimarci, il potere della nostra mente ci permette di immedesimarci in una situazione simile e far sì che appunto anche se siamo perfettamente al sicuro sulla nostra poltrona comunque sobbalziamo, comunque ci vengono i sudori freddi. Tuttavia, dicevo, non c'è un collegamento diretto tra adrenalina e piacevolezza. Un collegamento diretto tra piacere, o meglio ricerca del piacere, è dato dalla dopamina, che è un altro neurotrasmettitore simile all'adrenalina per struttura chimica, che viene anch'esso rilasciato durante le situazioni di pericolo, ed esso proprio ci spinge a ricercarne ancora. È lo stesso neurotrasmettitore che interviene nel sesso, che interviene quando si mangia o quando si assumono sostanze stupefacenti. Potremmo dire quindi che il cervello di un appassionato di sport estremi o anche di una persona che per esempio gioca d'azzardo, perché anche lì il concetto di rischio anche economico attiva comunque meccanismi simili nel nostro cervello e dal punto di vista della ricerca del piacere. Io ho letto degli studi, è fatto sì, di dopamina in quel caso. Degli studi recenti in Kingle che hanno fatto delle sperimentazioni, cosa che sospettavo da tempo, che anche nelle relazioni mediate da macchine, relazioni virtuali, la dopamina entra ugualmente in circolo, si scatena lo stesso come avviene in relazioni corporee reali e concrete. Quindi la nostra immaginazione è tale da farci vivere continuamente questa azione di eterna sospensione fra il momento del pericolo, l'abisso, e il nostro desiderio fuga di toccarlo e di lambirlo. Sentiamo Stefano. Stefano è un ascoltatore, buongiorno. Buongiorno. Ma io credo che spesso si ricerchi un po' questa idea del pericolo per migliorare un po' quella che potrebbe essere una nostra reazione poi provata nella realtà, che sarà totalmente diversa. Lei dove va cercandolo il pericolo? Ma mi immagino di incontrare persone per strada o di incontrare situazioni durante la mia vita che mi mettano a rischio, alla prova magari. Allucina di essere aggredito e lei si difende magari, immagino. Ma sì, questa è una situazione ideale, sì. Ma ben conscio poi del fatto che trovandomi ci reagirei in maniera totalmente diversa. Qui cosa fa? Lei si prepara tutto il suo set, dice quello mi aggredisce, io mi metto in questa posizione, prendo questa cosa, cerco di evitare. Sì, una specie di partita a scacchi, diciamo, in cui idealmente ne uscirei vincente nel migliore dei modi. Poi invece, però non le è mai capitato? Fortunatamente no. Mi sono avvicinato molto, ma poi ho sempre evitato in maniera abbastanza archilochea, gettando lo scudo e andandomene. Ecco, mi piacerebbe sapere dagli ascoltatori, che possono chiamare all'800240024, quali sono le quotidiane situazioni di pericolo che voi andate sfidando, nelle quali cercate comunque di mettervi dentro, anche se sapete che possono creare per voi dei rischi, possono essere di vario tipo, possono essere di quotidiano transito di una città, di incontro appunto, di sfidare alcuni posti che sappiamo che per noi potrebbero crearci difficoltà, o altri che appartengono soltanto al vostro regno interiore. Capire come sia per voi fascinoso toccare e sfiorare la situazione di pericolo. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. No, io volevo parlare appunto della mia esperienza. Fin da piccolo sono stato un amante dei giochi rischiosi, infatti ho cominciato a fare il motocross e con questo ho fatto un brutto incidente e sono andato anche in coma, diciamo, con questa moto che dove impennavo per Roma tutti i semafori, ma non per farmi vedere, ma proprio perché mi piaceva il fatto di stare su una ruota soltanto e camminare per 500 metri con una ruota. Vabbè, a farle pinne in città è da coatti, non è rischiare il pericolo. Era da coatti, soltanto mi piaceva proprio a me, nel senso, comunque era una cosa che mi piaceva. Dopodiché vado a cavallo e anche questo è uno sport molto pericoloso, perché il cavallo, uno pensa che va al cavallo così, e impennava anche il cavallo e caddi pure da cavallo, e quindi queste mie esperienze giornalmente. Adesso vado in bicicletta, faccio finta di andare a fare una normale, diciamo, passeggiata, invece me ne vado su una montagna dove scendo poi con la discesa. Non impenna la bicicletta. Impenno pure la bicicletta, tutto praticamente. Vabbè, la sua vita è un'impennata continua, in fondo c'è un senso profondo in questo desiderio comunque di superamento della condizione meramente orizzontale, quindi non ci vedrei nulla di negativo, è chiaro che ogni tanto uno possa anche farsi male. Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno a tutti. Silvana De Mari, l'abbiamo chiamata in causa, anche se è una scrittrice di genere fantasy, una saggista e psicoterapeuta. L'ultimo saggio pubblicato, ricordo, La realtà dell'orco, edizione Lindau, perché penso che su questo tema abbia da dire. Hai sentito questo ascoltatore? Esiste un senso profondo, quasi metaforico, del suo desiderio di impennare sempre. Si è fatto male, ma continua. Ma giustamente, sacrosanto. Io ringrazio molto Radio 24 di ospitarmi, perché quello che sto per dire è talmente politicamente scorretto che tanto nessun altro, e speriamo che non ci crocifiga. Guarda, io ho già subito abbastanza per aver parlato bene del film di Tarantino ieri, quindi sono stato accusato di razzismo bieco tutta la giornata di ieri sui social network, quindi meno sono male, pronto. Allora mi posso scatenare. Dunque, il pericolo è la cosa. Per quale motivo la dopamina per noi che proviamo quando siamo in pericolo ci dà piacere? Perché il nostro cervello si è evoluto durante la preistoria. Noi siamo dei poveri cristi che devono confrontarsi con una realtà postmoderna disponendo di un cervello preistorico. Nella preistoria, avete presente l'era glaciale 1, 2, 3, 4? Quella roba lì c'è stata davvero, ma non era così carina. C'erano meno 30 sotto zero, dove c'erano gli uomini che avessero il coraggio di uscire e andare a affrontare le tigre denti a sciabola e i mammut correndo pericolo, lì si sopravviveva. Quindi le donne riuscivano anche a mettere al mondo dei bambini. Per mettere al mondo dei bambini bisogna fare 9 mesi prima una roba, per cui l'uomo che è in grado di correre dei pericoli è dannatamente sexy. Il coraggio appartiene a tutti e due i sessi, sì, certamente, come no, ma il coraggio è legato al testosterone, di più che agli estroprogestinici, perché noi dobbiamo essere calmi e prudenti, altrimenti sbattiamo via i nostri bambini e ci andiamo a sbattere a fare robe strane quando siamo in gravidanza. Esattamente come appartiene all'essere umano, alla sua struttura, l'aggressività. Noi non possiamo smontare l'essere umano e dire questa roba qui è cattiva, la buttiamo via. L'aggressività è stata fondamentale. Noi abbiamo giustamente, sacrosantemente, era ora, messo insieme un'ideologia pacifista dopo i bagni di sangue incredibili della prima guerra mondiale e seconda guerra mondiale. La prima guerra mondiale è stata una guerra disumana. Anche perché, perdonami Silvana, si interrompo, sì. Sono le tipiche guerre in cui il massacro avviene in persone che tutto avrebbero voluto nella vita, a meno che trovarsi in situazioni di pericolo. Non erano solo guerrieri, erano poveracci, guerre, mandati erano in prima linea. Certo, ma erano guerre dove il coraggio non contava. Mentre Giuseppe Garibaldi aveva carisma, si trascinava dietro i suoi, e mentre i suoi gli correvano dietro, avevano l'adrenalina a palla, la dopamina a palla. Cioè, ragazzi, se noi fossimo andati, morivano felici sul campo di battaglia come ogni soldato. Sì, certo. A punto tale che si presentavano volontari per la guerra dopo. Se noi fossimo andati dai soldati di Giuseppe Garibaldi o da quelli di Napoleone, capi carismatici, a dire ragazzi, la guerra è una brutta cosa, questi ci guardavano in faccia e vabbè, questo lo dice lei. Allora, quindi il coraggio ci è necessario, perché senza il coraggio degli uomini l'umanità si sarebbe estinta, motivo per cui è nato il poema epico, per aumentare il coraggio degli uomini. La narrazione serve, attraverso un meccanismo di identificazione, a farmi trovare quell'emozione lì, sembra che senza che io debba andare fisicamente al battere. Quindi sono inconsapevoli ritorni nella società contemporanea a questo arcaico senso di differenziazione e ricerca della situazione di pericolo per affermare la propria identità, questo sarebbe. E per affermare la propria capacità di fronteggiare il pericolo quando lì non se ne potrà più fare a meno. Non siamo così in una situazione così idilliaca, io non sono in grado di garantire a mio figlio che non vedrà una guerra. Allora, se mi sono esercitato prima sfidando il pericolo, può darsi che nel momento in cui il pericolo vero c'è, io riuscirò a rischiare la mia vita per salvare mia moglie e mio figlio dalla morte di fame se non ho catturato la tigre denti a sciabola, dall'aggressore, perché l'aggressività esiste, noi ci siamo inventati che non esiste, ma i popoli disarmati si candidano a diventare popoli di morti o popoli di schiavi. Quindi noi abbiamo questo, e soprattutto lo abbiamo nella narrazione, perché se io non ho voglia di vivere in una città bombardata, mi leggo l'Iliade e attraverso la guerra di Troia mi faccio una guerra per l'interposta persona. Il pericolo noi ce l'abbiamo nel fantasy, oltre che nella narrazione realistica, anche nell'horror, che può essere horror fantascientifico, Alien, Terminator. Siamo pieni di queste narrazioni perché noi non possiamo vivere senza il picco di adrenalina barra dopamina. Fermati un attimo, fermati un attimo. Luca, buongiorno. Buongiorno. Sì. Ecco, è proprio quello che stava dicendo la dottoressa prima, volevo portare la mia esperienza. Io praticamente a 19 anni mi sono arruolato volontario e sono stato nel Sinai con la Forza Multinazionale di Pace, così abbiamo nel settore aerotrasportati e ho fatto un po' di lanci anche lì. Quando poi va bene, tutto bene, perché comunque ero costretto a farli. Quando sono comunque erano lanci militari, lanci a bassa quota, vincolati. Militari. No, bassa quota, diciamo, perché stavo con gli elicotteri, ecco, mi calavo su giù dalle funi, eccetera. Quando poi tornato qui a casa, sentivo proprio la necessità, il bisogno, non potevo stare fermo, è come una specie di prurito. E infatti ho fatto come ha fatto lei a 17 anni, sono iscritto a un paracadutismo sportivo. Però quando andavo sugli aerei, dicevo a me stesso che c'era una guerra, non potevo farlo a livello sportivo, avevo bisogno di una scusa per buttarmi. Volevo portare questa esperienza. Vuole dare una motivazione alta a quella che è un'attività sportiva. Sì, esatto, infatti diceva, ecco, ci stanno, diceva agli altri, no, a voce alta, ci stanno attaccando, ci dobbiamo lanciare. Gli altri mi guardavano un po' strano. Faceva come quando giocavamo ai soldatini da piccoli, più o però meno. È proprio quello, non riuscivo, ero pure un prurito, io andavo in giro per la anche città. Perché nel paracadutismo sportivo è uno sport come un altro, non c'è parte, diciamo, dei retaggi come appartengono al passato degli ultimi decenni, non c'è nulla di eroico, di pugnale fra i denti, è uno sport che fanno ragazze, signorine, fa chiunque. No, infatti volevo proprio... Con ampi limiti di margini di sicurezza. Melog. La realtà condivisa. Profondissimo, siamo alti, eh. Alti. 30 piani. 30 piani. 30 piani quanto sono in misura? 30 piani sono 100 foot. 100 foot? Sì. E 100 foot quanto sono più o meno? 100 foot sono più o meno 20 yard. E in metri non si può misurare? Se facciamo la staffetta 4x4 misuravamo in metri, siccome stiamo facendo jumping si misura in foot, massimo in yard. E come facciamo a calcolare la lunghezza della corda? La corda è già preconfezionata a 100 foot. E già così se mi leggo alla fine sono sicuro di spiaccicarmi al suolo. 100, pam! Te l'avrei chiesto! Tu quanti foot sei alto? Non lo so, quant'è un foot? Ogni foot è così. 6 più foot. O meno, 6 foot. Okay. E questi non sono più usufruibili. Ah, si fa così? Si fa così. E vabbè, ma scusa, la corda è elastica, anche se manca... Questo è Aldo, Giovanni e Giacomo che ironizzano sui fanatici degli sport estremi, il jumping, la misurazione della giusta lunghezza della corda elastica, in ragione del peso corporeo, dell'altezza, della distanza del salto. Ebbene, un'equazione complicata, se non la sbaglia giustamente si spiaccica a terra. Stiamo parlando oggi di pericolo, del piacere, della passione per il pericolo. Perché ci piace il pericolo? È il libro uscito per Sironi Editore, l'autore è Roberto Inchingolo. Adrenalina, paura e piacere, ci spiega l'autore come in realtà queste componenti, queste situazioni di neurotrasmettitori che si muovono, noi le ricerchiamo anche attraverso situazioni che non propriamente ricordano le antiche tensioni o la lotta alla tigre dai denti a sciabola, che ci ricordava appunto l'autrice di fantasy Silvana De Mari come la base della differenziazione necessaria tra i sessi, per cui qualcuno affronta il pericolo, difende la famiglia, qualcun altro si occupa appunto di partorire e allevare i figli. Elisabetta, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io volevo raccontare una cosa che mi è successa all'età di 10 anni. Ho avuto un tentato rapimento. Stavo sulla strada e sono stata tirata dentro una macchina da dietro dalla cartella che avevo dietro sulle spalle, dentro una macchina di 2 torte con 3 ragazzi armati di coltellini, lamette, e la macchina ha iniziato a prendere strada, a camminare, e io non so come ho trovato, ero seduta dietro a quello alla guida, praticamente dietro al posto di guida. Che era sceso per farla salire dietro, se era 2 posti la macchina. Non mi ricordo ora se era sceso quello di destra. Se aveva 2 sportelli. Dunque, soltanto. Mi hanno tirato dentro la macchina, cioè io mi sono trovata improvvisamente dentro la macchina e non capivo. Gli ho dato uno spintone mentre la macchina camminava. Questo si vede che cascando con il busto davanti al volante, penso deve aver fermato la macchina, perché io dopo un po' mi sono ritrovata in mezzo alla strada che correvo come una pazza verso un bar dove potermi rifugiare. Questa è una realtà che ha vissuto o una sua allucinazione? No, questa qui è una realtà che io ho vissuto, tanto che poi entrai dentro il bar, vidi un bar all'angolo, era una zona di Roma insomma non troppo signorile, e andavamo il pomeriggio a fare le lezioni di pallacanestro con delle amichette. Quindi un fattaccio di cronaca, un tentato rapimento di una bambina. È un tentato rapimento, io mi buttai alle gambe di questa signora con una bambina dentro il bar dicendo aiuto, aiuto, aiuto, poi arrivò un poliziotto e quindi la cosa si... Dunque una bruttissima esperienza, perché avendo 10 anni immagino... Una brutta esperienza che però si è risolta bene, ma la cosa che mi è rimasta oscura, ed è questo il motivo per il quale io vi sto chiamando, è che io ho trovato una forza incredibile, cioè non so come sono riuscita a scendere dalla macchina che stava praticamente, era ripartita. E quindi io mi chiedo, in questi momenti in cui si aumenta la dopamina, aumenta l'adrenalina, può aumentare anche una forza particolare che ci permette quindi di uscire fuori? Cioè lei non si capaccia come mai una bambina di 10 anni, esatto, rapita in un'automobile da persone malintenzionate con i coltelli e lamette e via dicendo, si è riuscita, esatto, con la sua sola forza fisica a scoraggiarli a persistere nel loro tentativo. Esatto, sua domanda. Questa è esattamente questa la domanda. Allora, non so se la domanda ha una risposta nel nostro autore, però gliela poniamo. Roberto Inchingolo, quello che dice la nostra ascoltatrice, le risulta da quello che lei ha approfondito riguardo il senso della paura, che in realtà in questo momento dello scatenamento dei neurotrasmettitori, in realtà noi abbiamo anche delle capacità superiori a quelle che normalmente saremmo capaci a riconoscerci. Il caso dell'ascoltatrice è un classico caso di reazione di attacco-fuga all'opera. Letteralmente quando ci spaventiamo, quando ci troviamo in una situazione di pericolo, di terrore, come in questo caso, l'intero corpo modifica il suo funzionamento, il suo metabolismo. Si respira maggiormente, i muscoli si contraggono, si distendono in maniera diversa, vi è una maggiore ossigenazione degli muscoli stessi, una maggiore attenzione da parte dei sensi. Questo letteralmente si traduce in una maggiore forza fisica, una maggiore capacità di rispondere. Normalmente un anabolizzante naturale, ci pompiamo automaticamente. Quindi non mi sorprende che a soli 10 anni la nostra ascoltatrice sia stata in grado di esibire una forza tale da sfuggire a un pericolo. Comunque ha stupito i suoi rapitori, non si aspettavano una reazione, questo molte volte è la situazione. Sì, esatto. La cosa che poi vorrei puntualizzare in questo caso, per chiarire anche un po' il ruolo dell'adrenalina in questo caso, non solo ha contribuito a rendere la nostra ascoltatrice più in grado di salvarsi, ma ha anche allo stesso tempo fossilizzato nella sua mente questa esperienza. Infatti da alcuni studi risulta che l'adrenalina è molto importante per memorizzare e interiorizzare situazioni pericolose, rende le esperienze memorabili. Se non è quella che rende una situazione di pericolo piacevole, poi stiamo facendo il caso di sport estremi o altro, è quella però che la rende memorabile, che fa in modo che la nostra mente si ricordi nelle prossime occasioni come ci si è comportati, in modo da reagire in maniera efficiente anche quando non si ha letteralmente il tempo per pensare che sta succedendo. Lo dice lei stesso, Roberto Inchingolo, d'altronde tutta la narrativa epica è memorabile perché parla appunto di lotte titaniche, di combattimenti, di eroi, e quindi per questo è memorabile, perché ci riporta delle situazioni di pericolo vissute dai protagonisti e quindi ce la mettiamo in memoria. Lei però, proprio nel capitolo che avevo citato prima della pausa, Progettare la paura migliore, nell'incipit racconta una situazione di estremo pericolo che lei ha vissuto e attraversato attraverso però una simulazione, un videogioco. In certe particolari forme di videogiochi, anche molto immersivi, si ricreano queste situazioni di paradossale pericolo, perché in fondo c'è una piacevolezza nel vivere dei momenti epicamente memorabili. Anche questo è vero. Per quanto riguarda la paura virtuale, c'è un enorme filone e anche un enorme set di attrezzi da parte degli autori per cercare di spaventarci nella maniera più efficiente possibile, dalle colonne sonore che richiamano ai versi degli animali terrorizzati e quindi spaventano anche noi, o al rendere i protagonisti o gli antagonisti il più possibile robotici e innaturali nei loro movimenti. Tutte queste cose aumentano la tensione e permettono a un autore di far leva sulle nostre paure primordiali e spaventarci anche se non stiamo facendo nulla di veramente pericoloso. Giulia Bastiani, buongiorno. Buongiorno. Giulia Bastiani è una donna che pratica, non so se chiamarlo sport estremo, folle attività, ma che è la metafora più fantastica di quello che stiamo dicendo. Immaginate il mito del funambolo, il funambolo che stende il suo filo sulla piazza e gli spettatori con i nasi all'insù che guardano al cardiopalma questo passaggio pericoloso, non si sa se cadrà, se poi tornerà indietro, si spaventerà, riuscirà ad arrivare fino in fondo. Lei lo pratica come fosse uno sport. Esattamente, per me si tratta proprio di uno sport che è anche diventato, diciamo, un po' uno stile di vita. Sì, dica. No, chi l'ha inventato? Di che si tratta? La prima volta sente parlare. Diciamo che è nato negli anni 80 negli Stati Uniti da scalatori fondamentalmente. Si chiama slacklining, la camminata sul filo sospeso. Sì, esattamente, però a differenza del funambolismo la corda non è tesa ma è una corda elastica. Quindi è moscia, diciamo, camminate. Moscia, esattamente. Beh, a che distanza è da terra? Ma si può partire ad un'altezza, diciamo, dai 50 centimetri dal suolo, che è un gioco, non ci si fa nulla. Non ci si fa nulla a seconda delle acrobazie che uno decida di realizzare. Ci si può anche rompere i legamenti, come è successo a me. Ma diciamo che da questa bassa altezza si può arrivare fino alle cime delle montagne, dove paradossalmente il rischio di farsi male è minore, ma si aggiunge l'elemento dell'altezza e quindi del vuoto. Ma se è in sicurezza, in qualche maniera uno è assicurato alla corda, se scivolasse come fa il funambolo di Zarathustra, si schianterebbe nella gola oppure rimarrebbe lì appeso? Allora, normalmente si fa assicurati, anche se ci sono persone che in casi puntuali lo realizzano senza nessuna senza rete. Senza rete e senza essere legati alla corda, più che altro, perché si fa di solito in montagna. Ecco, ci riesce a descrivere una sensazione? Perché la camminata sulla corda, io immagino, non parliamo dei 50 centimetri, anche se poi farete tutte certo. Le evoluzioni possibili e immaginabili. Certo. Una corda sospesa a una vertiginosa altezza, il funambolo da piazza di paese, anche se poi lei mi dice elastica, non elastica, ma comunque sia è una camminata sulla corda. La camminata sulla corda, per questo Nietzsche l'ha posta come elemento filosofico importante, a questo fatto, una volta che uno parte non può più tornare indietro, è peggio tornare indietro che andare avanti, e questa è la cosa terrificante, che dà un'impossibilità di scegliere la via migliore, e bisogna per forza comunque mantenere l'equilibrio. Bisogna mantenere l'equilibrio, ma se si cade appunto si è legati, quindi si ricomincia, anzi prima di poter essere in grado di camminare una corda sia a pochi centimetri di altezza che in montagna ce ne vuole un bel po'. Ma il senso di paura c'è un momento in cui... Il senso di paura c'è sempre. In ogni momento. Con tutti i sintomi della paura, quindi il cardiopalma, il batticuore, il respiro che cambia. Assolutamente, assolutamente. Sia nei principianti a chi già lo fa a livelli proprio estremi. È proprio la caratteristica principale questa ricerca, diciamo, del pericolo, ma secondo me è legata proprio a una ricerca di un equilibrio, di un controllo su se stessi, che permette anche di sviluppare capacità che una persona magari non sa di avere. E perché ha questo desiderio di controllare se stessa? Perché secondo me non è un desiderio, è proprio una cosa che uno sente, che sviluppa interiormente e che poi lo aiuta anche nella vita di tutti i giorni. Non è meglio lasciarsi andare, abbandonare ogni controllo e vedere che succede? In che senso, scusi? In questo senso qua, non so. Questo training nel controllo di se stessi mi fa pensare, non è più liberatorio invece abbandonare ogni forma di controllo? Una domanda che faccio a chi mi ha detto che cammina sulla corda per abituarsi al controllo. Io domando, dico, ma fare esattamente l'operazione contraria non darebbe più soddisfazione? Io ripeto, secondo me non è una cosa, non è un controllo controllato, come dire, è proprio una cosa interiore che uno sente e fa. Quindi è una disciplina, è quasi una forma ascetica di provare se stessi, migliorare, è un esercizio su se stessi, l'abbiamo capito, non è uno sport estremo. Melog, la realtà condivisa. L'arrampicata libera è un modo di salire una parete, una montagna, un qualsiasi cosa, usando esclusivamente le mani e i piedi per progredire. I mezzi artificiali sono intesi o vengono usati esclusivamente per la protezione in caso di caduta. In caso di volo abbiamo una corda, un chiodo, un moschettone che ci trattiene. Arrampicata completamente libera, senza niente. Nella capacità che ha l'essere umano di inventarsi situazioni che ricreano questo set di pericolo, mi stanno arrivando tantissime segnalazioni, soprattutto in SMS, che poi non vogliono essere chiamate in trasmissione. Mi chiamo un'ascoltatrice, per lei la sfida adrenalinica è rubare, probabilmente cleptomane o qualcosa del genere, ha un piacere immenso nel rubare e sfidare la paura di essere scoperta. un altro che fa l'attore, per lui è il momento di affrontare il pubblico, di presentarsi in palcoscenico. Altri raccontano esperienze più estreme, un cacciatore d'Italia che non vuol parlare purtroppo per conto di quella volta che ai confini del Messico si beccò due pallottole. Queste sono belle situazioni da raccontare. Roberta, buongiorno. Sì? Roberta. Sono in linea allora. Sì. Ho 75 anni, quasi 76, e non avrei mai immaginato di cedere ad una persona che bussa alla mia porta per svolgere il suo lavoro. Effettivamente questa volta era un agente di un'azienda elettrica. E ha ceduto in che senso? E ho ceduto nel senso che mai io non voglio nessuno, cioè nel senso ero preparata a difendermi, nel senso di ricevere sola in casa. Ma era un normale agente, non aveva nessuna intenzione bellicosa? Non aveva nessuna intenzione, però mi ha fatto un contratto che io non volevo, e dopo mezz'ora che se n'è andato. Ah, l'ha truffata. Gli ho offerto il caffè, gli ho offerto tutto quanto, gli ho offerto questo, gli ho offerto quell'altro, è stato insinuante. Sì, ma dov'è la paura in questo? La paura era che io il contratto non lo volevo affatto. È un truffatore, sappiamo bene. Fabrizio Intonti, il nostro collega, ha una lunga vicenda, varie colleghe in varie trasmissioni Radio 24 trattano questo episodio. Queste sono le truffe porta a porta. Roberta, non c'entrava nulla, mi dispiace, il suo cedimento questa volta era fuori luogo. Osvaldo. Buongiorno. Sì. Il mio pensiero, cioè, certamente non vuole spiegare tutto, perché il mondo è molteplice e multiforme, cioè queste forme, si dare la paura, è una forma di essenza. C'è sempre un vuoto dentro di noi, per cui se facciamo un'impresa è come esistiamo di più. Quello che c'era il nostro autore, si passa un tempo memorabile, quindi chi non riesce ad andare a un reality show, un passaggio in televisione, o non ha tantissimi amici su Facebook, o non riesce a twittare in maniera compulsiva, esiste sfidando delle situazioni epiche, pensando così di passare alla storia, una sua misera, mera storia individuale. Silvana De Mari, che ne pensi? Vorrei ritornare all'episodio della ragazzina che si è liberata dal rapimento. Ce l'ha fatta perché è stata coraggiosa, quindi il coraggio, è che si allena come una qualsiasi cosa, ha aumentato la sua capacità di sopravvivenza. Moltissime persone, in particolare donne, alle vostre bambine fate fare arti marziali, poi la danza classica la fanno un'altra volta, o fate fare anche danza classica, ma fate fare anche danza del ventre, che aiuta. Si lasciano fregare, chiedo scusa per il termine, perché vanno in paralisi. L'adrenalina, la collera, mi leva dalla paralisi. Non solo, ma mi permette anche di non sentire il dolore, quando faccio a botte, poi mi accorgo dopo dei lividi, e di non sentire la paura. E noi abbiamo bisogno di allenarci la paura, altrimenti quando veniamo aggrediti andiamo in paralisi. Motivo per cui, forse questo è un discorso che avevamo già fatto, le fiabe devono fare paura. Noi abbiamo bisogno di narrazioni che ci insegnino a fronteggiare la paura e il coraggio. Noi siamo pieni di horror e fantasy perché noi siamo continuamente confrontati al genocidio e alla sua forma portatile, che è l'atto di terrorismo contro civili. Ognuno di noi può trovarsi di fronte il terrorista che decide che la nostra morte è la sua. Oggi c'è una foto in un giornale, mi sembra sia il Corriere della Sera, spaventosa, un'impiccagione in un paese islamico, non so se in Iran. Si vede il giovane condannato a morte, pronto a essere impiccato sulla gru che l'avrebbe tirato su, che appoggia il capo sulla spalla del suo boia, un altro ragazzo come lui, solo incappucciato, è un momento di sconforto, e l'altro lo cinge col braccio, contiene la sua paura. È una foto spaventosa, ma però è la contemporaneità, è la contemporaneità, è un momento di non saper gestire una paura. Esatto, abbiamo bisogno di coraggio per fronteggiarlo, quindi ricordiamo al fantasy proprio per recuperare il coraggio. Gli orchi esistono in Iran, nazione in questo momento presiede la Commissione ONU dei diritti umani per le donne, e si può essere lapidata una bambina, la più giovane lapidata a 12 anni. Fermiamoci un attimo, l'ultima domanda a Roberto Inchingo, l'autore di Perché ci piace il pericolo, Sironi editore. Come sintesi di tutto quello che abbiamo detto, il mondo moderno ha bisogno fondamentalmente di misurarsi con la paura? Certamente, e tutti gli interventi che sono stati detti oggi, sia dagli ascoltatori, sono stati incredibilmente interessanti e hanno degli spunti di cui nel libro tratto, e ovviamente che però meriterebbero un enorme approfondimento anche in una conversazione di questo tipo. Il mondo moderno ha bisogno della ricerca della paura, questo sicuramente. Diceva un ascoltatore prima, lui l'ha chiamata essenza, io la chiamo ricerca dell'identità. È un confronto con il gruppo. Chi fa determinate azioni pericolose a volte lo fa per affermare una propria identità e per ricercare di far parte di un gruppo di cui si sente appartenente. Grazie Roberto Inchingolo, grazie ai nostri ascoltatori. La sigla ci dice che, paura o non paura, la trasmissione è finita.